ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo! Pronto! Chi è? Sono Vittorio Feltri. Buonasera. Ho letto e sentito delle dichiarazioni sconcertanti. Se mi fa la gentilezza di chiamare con un numero conosciuto. Numero quale? Perché se quel io numero parlo... è il numero di Milano, è il numero della redazione di Milano. No, se non conoscete numero, perché non fate un cazzo lì un al sud. Non ma ecco, ma che cosa fa? Non fate ma niente vade, al sud e risponde con volgarità alte. Io ho chiesto solo di parlare e di rendermi conto. Ma come si permette? Ma come si permette? Ma come si vada a lavorare lei? Vada a lavorare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Domenica a Cervi, a Cesenatico, era strapieno. Strapieno di gente, nessuno la mascherina. Evviva la Romagna, evviva i romagnoli. Le navi salpano, le spiagge bruciano. Viva la Romagna. Selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte giù. Vaffanculo, quello lì che vuole mettere la maschera al mare. Parlami d'amore che domani sarà. Bastardi coglioni. Forse dovremmo avere in video collegamento professor Melucci. Davide! Tra poche ore, tra poche ore. Luciani! Sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi prendo. Matteo! Non ci penso più, e non ci penso più. Faccia schiaffi, faccia schiaffi. Cosa? Ramelli. Come se fossero te, come se fossero te. La Zanzara è una trasmissione radiofonica che va in onda su Radio 24, il Sole 24 Ore. Caro Grillo, forse non ti sei reso conto, ma vorrei sapere, ma questo ogni tanto scende per strada, se va a fare un giretto per Roma? Perché vedete, Roma, scusatemi, ma ve l'ho detto e ve lo dico romano, è ridotta una merda, avete capito che vuol dire una merda? E poi te fa un giretto per le strade di Roma, sembra di stare a Kabul dopo i bombardamenti. Io non so un cazzo. Legate le mani a questo. Non di parolacce a bombolo che ho fatto il voto. All'inizio, sì, questa è brava, poi dunque che cazzo hai fatto? E che cazzo mi fai capire? Sotto il sole, sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi prendo. E non ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi, faccio schiaffi. Con le onde, con il vento le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Stanno sanificando il negozio, il mio centro estetico, il mio salone. Iniziano dalla pavimentazione. Capezzone. Sì, ma allora, nell'ordine, numero uno, secondo, terzo. Via! Da questo canale! Il collegamento dagli studi della 7, anzi dagli uffici, non so dove, non me ne frega un cazzo, basta che si senta. E devo dire la verità, in queste due settimane non ho motivo di lamentarmi. David Parenzo, applausi, eccoci qui. Buonasera, buonasera cari amici, questi applausi vanno a tutto lo staff della 7, che ovviamente culo, in particolare il suo amministratore, l'amministratore delegato. Ma giù con questo lecchinaccio. Quindi non voglio prendere un merito, non voglio prendere che non ho. Quindi, Monterosa 91 20 149 Milano, grazie alla corte. Amici miei, hai sentito prima Bombolo? Sì, hai sentito Bombolone? Hai sentito Bombolo sì, prima? Sì, che incredibile. Bombolo contro Grillo. Però c'ha ragione in questo caso. Grillo ha parlato di romani come gente di fogna, la Raggi che non si merita, no, non si merita le critiche, non, al di sopra, non ti meritano, dice Grillo. Dai, sentiamo Bombolo comunque. Bombolo Rinaldi contro Grillo, vai, ce l'abbiamo, vai. Allora, oggi cercherò di parlare non in italiano ma in romano stretto. Vabbè, non perché, è diverso, perché però, sono cazzato nero. Perché Grillo ha postato sulla sua pagina un sonetto, non lo so, ma non ha insultato Roma e i romani. Sì. E quindi io, da vero romano, gli rispondo. Ma non è diverso da come, scusa, però non è diverso da come parla normalmente signor Rinaldi. È esattamente è uguale, cioè non è che ha dovuto farlo, però ma diglielo, ma l'ho detto, ma è la sua forza pure, deve parlare romanesco. Oh, ecco la lira, io c'ho le lire. Oggi Conte ha vista Dracula della Merkel, mamma mia, è andato lì col cappello in mano, li mortacci sua. L'ho letto tutto sto post. Ha scritto sto uno post. Che dice che è di Roma. Ma vorrei sapere, ma questo ogni tanto scende per strada, se va a fare un giretto per Roma. Perché vedete, scende. Roma, scusatemi, scende, ma ve l'ho detto e ve lo dico romano, è ridotta una merda. Avete capito che vuol dire una merda? Prova un po' andare a fare un giretto con un ragazzino in qualche parco di Roma. Provaci un po' se riesci ad andare. È pieno di monnezza. Vabbè, ma è una cosa che fa schifo, perché non ci passa nessuno a pulire. Va bene? Appena c'è un acquazzone, fio mio, tutte le fogne zompano. Eh? Perché? Perché non si pulisce. E poi è pure pericoloso parcheggiare una macchina da qualche parte, che ti ritrovi minimo la macchina sfondata perché un albero ti casca in testa. Questo è il grande Rinaldi, questo è il grandissimo Rinaldi. Ora ragazzi, te sfonnano. Però ragazzi, bisogna dire una cosa, devo dare ragione a qualcuno, perché c'è chi fa una propaganda terroristica ancora su questa storia del coronavirus in Italia. E adesso leggo da un sito. In Italia 169 nuovi contagi. Cresce il numero dei morti. 13 nelle ultime 24 ore. Uno dice, cazzo, cresce. Erano 9 ieri. 9 erano ieri. Quanti sono adesso? 13. 13, ma di che parliamo? Di cosa stiamo parlando? Del nulla, del nulla, del niente. In Italia non c'è niente, c'è poca roba, certo, poi uno dice bisogna. Ma no, ma in Italia non c'è un cazzo, adesso non c'è un cazzo. Ma che negazionista? Ma guarda che è incredibile, guarda, è incredibile. Ancora leggo titoli sulle home page dei grandi quotidiani in Italia. Crescono i contagi, cresce il numero dei morti. Poi vai a vedere che poi i nuovi contagi non sono un cazzo, perché la maggior parte delle persone sono asintomatiche senza aver. Ragazzi, è incredibile. Porro, datemi porro. Questo è un mondo per 250, 220, 210, 195 positivi, che non vuol dire assolutamente nulla, perché essere positivi al Covid non vuol dire nulla, e peraltro per i giovani vuol dire ancora di meno. Noi si deve chiudere le discoteche, è una cosa che mi fa impazzire. L'idea che dei ragazzini non possono andare in discoteca e vengano trattati come dei criminali perché si prendono un aperitivo è una cosa che mi fa senso, e vi dirò di più, e quei ragazzini che pensano che sia giusto questa cosa, stiamo formando una, come possiamo dire, una categoria di cagasotto. Cioè un ventenne che veramente crede, visti tutti i dati, viste tutte le statistiche, visto quello che è successo nel periodo più duro del Covid, che sia un problema per lui questa malattia, e ci crede davvero ed è contento che siano chiuse le discoteche, che non si possa fare l'aperitivo, che si debba stare con la mascherina, ebbene, quel giovane sarà un giovane vecchio cagasotto che ci governerà come classe dirigente di cagasotto nei prossimi anni. Cioè l'Italia è destinata a morire se saranno questi a guidarci. Ragazzi, ma se c'è un'emergenza del Covid non è certo nelle discoteche, non è certo nelle mascherine che non indossiamo, e forse in questi immigrati che arrivano in dei barconi chiusi, che sono le nuove RSA, va bene? Il problema, dice mamma Porro, mia, sono gli immigrati che mamma arrivano. Mia, effettivamente, hai, i nuovi hai appaltato, casi. Hai appaltato questa radio a Porro, ormai. Ma ci sei tu che parli ogni giorno. Ma che cazzo che dici? Gara da, ma ci sei tu che parli dato ogni giorno? Quello quanto mando, gli hai dato? Mando in onda hai degli audio di due minuti. Hai subappaltato una trasmissione. Ma lo sanno a Confindustria che hai fatto un subappalto. Ma io chiamo l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, e ti porto via tutto. Tutto ti porto via. Hai dato in certo, hai dato in appalto la trasmissione a Porro. Io chiamo l'ANAC, l'autorità nazionale. Adesso scrivo all'ANAC. scrivo all'ANAC di fare dei controlli, di fare dei controlli. Comunque ragazzi, posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Allora, ho preso nel fine settimana un aereo per la Puglia. Ah, pure l'aereo hai preso. Pure l'aereo. Grazie al cazzo. Ma meno male, non c'è nessuno, cazzo, che viaggia senza mascherina per l'aereo. No, con la mascherina. Per andare a fare un'altra marchetta a Polignano, ma incredibile, guarda. No, no, no, sono andato a presentare un libro del tuo collega. No, il punto è un altro. Di Telesi, il punto tutto è un altro. Pagato, tutto certo, stipendiato. Ci mancherebbe pure che tutto stipendiato. Ma sì, ma no, stipendiato. A portare il virus in Puglia. Allora, a portare il virus in Puglia. No, ti posso dire una cosa, due follie assolute. Dunque, la follia è quella di questo cazzo. Ma io veramente io voglio vederci chiaro sui compensi che Polignano a Mari ti ha dato. Ma nessun compenso. Allora, stai zitto un attimo, Allora, la follia dell'aereo. Allora, come sai, hanno vietato di portare i trolley, non di portarli, di metterli nelle cappelliere. No, non si possono portare i trolley. Ma certo cosa? Un cazzo! Che cosa? Un cazzo, certo. Cioè, ammassano, cioè non è che vendono meno posti sull'aereo, perché tu puoi capitare puoi capitare con tre persone. Cioè, puoi capitare con la normale capienza dell'aereo. E dunque le persone una accanto all'altra di 20, con 20 centimetri. Però poi non puoi mettere il bagaglio nelle cappelliere, non puoi mettere niente. Ma che cazzo vuol dire? Tutto estiva, tutto estiva. Ma perché? Per evitare che il virus si fermi. Ma non sopra, c'entra un cazzo. No, è perché per non far ammassare le persone quando prendono per i bagagli. Per evitare l'assembramento. Ma delle c'è persone, già l'assembramento. Sposta, ma c'è quello già. Quello che prende la cappelliera, quello che ti sputa altra in faccia. Follia, il sudore. Altra follia. Ti fanno uscire a scaglioni i posti dall'1 al 4, i posti dal 5 all'8. Certo. Ma che cazzo vuol dire? Ma anche quello, poi ti mettono insieme nel pullman per andare via. Ma che roba è? Ma che roba ridicola è? Ma sono tutte cose ridicole. Poi questa cosa degli assembramenti. Sono stato a aperitivi, feste sulle terrazze con 70, bravo, 80, 90 persone che ballavano feste, normalmente. Bravo, ma di che parliamo? Bravo. Ma di che parliamo? Certo, certo, sì. Tradimenti, no, tradimenti, no, promiscuità, una vergogna. Ma io vorrei che intervenisse davvero l'autorità sanitaria e l'autorità anticorruzione. Siete la contraddizione vivente. Le regole ridicole, ridicole del trasporto, una cosa patetica. When I was young. Mamma mia, Parenzo, quanto me lo fai diventare duro. Mamma mia. I love my radio. Ora rilassatevi. E state un anno in posizione Y by Flex. È un'offerta così flessibile che la fanno anche a yoga. Mini Cooper Countryman Baker Street Edition con Y by Flex, tua a €140 al mese, TAN 1,99, TAG 3,49 e dopo un anno decidi se rifinanziarla, cambiarla o restituirla. Da subito e solo fino al 31 luglio, incentivi mini su tutta la gamma, anche senza rottamazione. Scopri di più su mini.it. La Zanzara. Oh Crucio, io mi eccito guardando le mamme che si tirano il latte col tiralatte. Cucciani, sembra che oggi se non sei gay ti devi vergognare di essere etero. Ma io non capisco questa gente. Non abbiamo niente contro di loro, che noi siamo eteri, eterosessuali. Facciamo figli e tutto. Se hanno scelto di essere gay, non devono neanche pensare di adottare figli, se no cambiano. Punto, basta. Non è una questione di essere contro di loro, ma è una scelta loro che devono anche accettare. Ciao, Crucio. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Intervista a Salvini, anche qui l'intervista a Salvini, peraltro fatta da un ottimo Mario Giordano, ma anche lì, cavolo, Salvini dice sempre le stesse cose, purtroppo. Allora, ragazzi, ragazzi, diciamo subito una cosa, una piccolissima cosa semiseria, poi andiamo su Pappalardo che ci divertiamo come matti. Allora, ma possibile mai, mi sono chiesto questa cosa, che solamente in Italia ci sia questa cosa dei poteri speciali, no, prolungati forse fino al 31 ottobre, non si capisce, prima era il 31 dicembre, eccetera. Possibile che sia l'unico paese che ha bisogno di una specie di regime speciale, diciamo, no, di provvedimenti? In tutti gli altri paesi, dove pure c'è stato il coronavirus in maniera pesante e grave, non è che il governo ha dei poteri speciali rispetto a quelli che ha Conte? Perché si devono attribuire? Non riesco veramente a capire questa roba qua. Solo in Italia? Forse c'è qualcos'altro allora? Cioè c'è qualcos'altro che il governo sta... dire no, ma non c'è la dittatura, no, io non forse sono uno di quelli, c'è no, non sono, è una cosa politica che non ha nulla a che fare con la realtà, non servono. Comunque, queste cose qua, è sbagliato chiedere i poteri speciali, questo no, è sicuramente ma... un errore, ma perché solo in Italia? Perché solo in Italia? Potremmo discuterne con Sabino Cassese, no, direi di no, potremmo... meglio di no, no, meglio, no. Di no. Allora, meglio di no, meglio di no, meglio di no, meglio di no. Pappalardo che ci insulta, stupendo, meraviglioso. Senti, volevo dire, aprire una piccola parentesi. Apriamo, sì, apriamo. Per sì. difendere il vicepresidente nostro, Giuseppe sì. Pino. Pino, ma sapete, Pino. Giuseppe Pino è un uomo buono, no, come non lo un sappiamo. Uomo generoso, un uomo che ha dato tanto il alla suo patria. Portaborse. Ha meritato la medaglia d'oro sì. per aver arrestato oltre 1500 delinquenti nella periferia romana. Pino, e Pino. Quei due cialtroni di Cruciani e Parenzo lo vanno a stuzzicare, lo vanno a chiamare, gli telefonano per metterlo in difficoltà. Beh, siete due vigliacchi. Ma perché vigliacchi? L'abbiamo chiamato. Dov'è la vigliaccheria? Cialtroni, si difende bene da solo, cialtroni vigliacchi. Aspetta, aspetta, vai avanti. Siete due vigliacchi perché mi state stuzzicando perché io partecipi alla Zanzara e no, vi ho mandato a farvi benedire, no, come ma, vi meritate. Perché siete due cialtroni venduti al potere. Lo sanno tutti, voi lavorate per il potere, tant'è vero che vi danno spazio in televisione, apparite chi da una parte e chi dall'altra. Siete due cialtroncelli, due giornalisti di quattro soldi. Lasciate in pace, il bravo commissario Pino, lasciatelo stare. Chi è commissario? Che poi sono tutti, perché è un ex poliziotto, poi sono tutti ex poliziotti, ex militari, questo è un po' preoccupante. Ma com'è, è una roba pericolosissima, cosa vuol dire? No, allora, vigliacchi, cialtroncelli, eccetera, e poi soprattutto venduti al potere, la cosa incredibile, venduti al potere. Poi senti che dice Conte dovrebbe avere due ergastoli, adesso va bene, uno può anche non amare il signor Conte, può anche non amarlo, però due ergastoli, papà, su, dai, si buono. Perché il signor Giuseppe Conte ha commesso tanti di quei delitti, i miei avvocati lo stanno elencando, si arriva addirittura a due ergastoli per quello che ha fatto Conte, ma nessuno interviene, la magistratura tace, le forze di polizia complimenti tacciono, tutti tacciono. Io sono in Tunisia. Taccelo perché sei matto, taccelo perché sei disturbato, amico io mio. Io sono in Tunisia perché sto lavorando a livello internazionale. Ma io sono in Tunisia a lavorare. Io sono in Tunisia a lavorare perché non solo sto facendo musica, ma stiamo facendo anche il grande corridoio nord-sud che parte da Londra e arriva in Tunisia. Ma noi sì, ma quale stiamo corridoio? Lavorando a 360 quello di casa gradi. Tua in Tunisia. Allora, coraggio. Dovete capire che stiamo lavorando anche a livello internazionale. Ma così con si chi? Non stando chiuse nei propri cortili di casa. Allora, grande ritorno, mi sembra Stefano da Padova qui, c'è Stefano da Padova. Andiamo Stefano, avanti tutta, dimmi che c'è. Mi senti? Male, dimmi Stefano, dimmi. Come male? Sono al telefono, perfetto. Io ce l'ho sempre col tuo amichetto Parenzo. Che vuoi dire? Che vuoi dire a Parenzo? Dico, mi caro. Ti dicevo, si è trovato bella Padova perché è piena di porcile. Porcile Padova. Ma chi se ne frega di Padova? Ancora costa Padova? Io ieri sono andato a Messina, a Porcile. Mi sono fermato a stazione Termini e Porcile. Adesso vedi Porcile ovunque, ragazzi. Io giro. Ma ovunque vai a un Porcile, perché evidentemente la tua mente è un Porcile. Sei sporco dentro. Evidentemente sei tu che sei sporco dentro. Renditi conto. Sei sporco dentro tu. Vedi solo negatività. Tu vedi solo negatività. Chiedi il signor Macron perché non li fa passare. Dai, al confine con l'Austria. Berto dalla provincia di Venezia. Berto, dimmi Berto. Dimmi Berto, dimmi. Tutto? Dimmi Berto, dimmi. Sì, buonasera. Senta, io volevo praticamente parlare degli immigrati che vengono qui. Allora? Diciamo che in questo periodo, cioè io faccio un lavoro inerente. Inerente, che vuol dire inerente? Che vuol dire inerente? Io faccio l'operatore di strada. Che fai l'operatore di strada? praticamente. Che cazzo vuol dire l'operatore? Volontariato. Ah, volontariato. Dunque? Siccome che adesso purtroppo anche col lavoro sono a casa, perché allora? Il virus mi ha rovinato. Io vedo la gente che viene qua, è scandaloso. Cioè, perché secondo te dovrebbero impedire a tutti i costi, soprattutto in questo periodo, agli immigrati di arrivare, di sbarcare, eccetera, eccetera? Sì, ma perché io vedo che vengono qua, ma cioè vengono qua nigeriani che alla fin fine vengono qua solo a far cazzate. Cioè, allora? Ci sono etnie che vengono qua solo per quello, non tutti, perché tanti sono bravi ragazzi. Però certe etnie, tipo di loro, sono... Caro Parenzo, sta ritornando questo argomento, l'immigrazione, l'immigrazione. Ma il culo coperto, quindi che ne frega lui. Ah, il culo coperto, sì, è vero, questo, che il culo coperto è sicuro. Parenzo è il culo coperto, ha detto che è il culo coperto, risponde, ha detto che il culo... Ha detto Berto. Quello che dice l'ascoltatore, me ne fotto di Berto. Ma è un operatore di strada, me ne fotto di Berto. Berto, rispondi, per favore, Berto, rispondi. E di tutti Berto che chiamano qua. Berto, rispondi. Hai scritto libri falsari, sei un ipocrita per eccellenza. L'hai letto? L'hai comprato? Lo hai letto? Lo hai comprato almeno? A me basta che tu lo compri. Due, tre cazzate che l'ho comprato. Fermo lì. Vorrei acquistare un veicolo commerciale ibrido, ma non so quale scegliere. Tu che dici? Ford Transit o Ford Transit? Scegli l'unico veicolo commerciale ibrido diesel, Ford Transit Hybrid. Meno consumi, più attenzione per l'ambiente, stessa capacità di carico. Tuo a €230 al mese, anticipo zero, IVA esclusa. TAN 349, TAEG 454. Veicoli commerciali Ford, da sempre, al fianco di chi lavora. La Zanzara. Parenzo! Parenzo! Volevo chiedere a Parenzo come giustifica con sua figlia il fatto che tutte le sere prende parolacce, insulti. Capisco che a lui prende anche uno stipendio, però un po' di dignità non ce l'ha quell'uomo lì. Parenzo, fuori ragazzo nei vicoli, sento sirene negli angoli, nessuno cercherà la Parenzo. Parenzo, c'è di per strada miracoli, gli altri ti dicono salami. Parenzo, ricordi dove il tuo cuore. Strade di Napoli, corro. Ciro. Dentro vicoli scomodi, corro. Ciao Ciro. Parenzo. Parenzo. Ora ricordo dove il tuo cuore. Niente. E Capezzone. Sì, ma allora, nell'ordine, numero uno, secondo, terzo. Non mi interessa un cazzo! Parenzo, a me non interessa se la corte non mi manda in onda il mio messaggio. Sappi che se questa trasmissione chiude, ovunque andrai, ovunque sarai, io ti troverò e ti scorreggerò addosso. Ti porterai le mie scorregge anche nella tomba. Poi vammi a denunziare. Non farla chiudere, David. Io ti scorreggio addosso. Direttamente dalla cameruccia magica. Non c'è trucco, non c'è inganno. Brasiliano, ma quale cervello splendente. A 40 anni hai i neuroni bruciati dalla coca e dagli steroidi. Sei più ignorante di una capra e hai il livello intellettivo inferiore a una scimmia antropomorfa della quale hai anche l'aspetto. Woo! prossimamente credo ci sarà uno scontro, caro David, su queste onde radio, su queste frequenze, chiamala come vuoi, tra il brasiliano e il cacciatore di Rom, legionario di Milazzo. Hai dato in appalto questa radio a dei briganti, a dei neonazisti, a dei criminali, hai dato in appalto, ma cos'è? Ma sai che il subappalto fatto in questo modo, ma hai informato l'azienda? Ma hai informato l'azienda che tu hai dato in appalto al Brasile dei pezzi di radio? Io chiedo formalmente da questi microfoni l'intervento dell'autorità nazionale anticorruzione, perché io, guarda, temo il peggio per quello che hai fatto, temo il peggio. Allora ragazzi, l'ipocrisia, la follia di questo periodo, il politicamente corretto, chiamatelo come volete, mi ha molto colpito, so che non ve ne frega un cazzo, ma è un piccolo granello, è un piccolo segnale di quello che ci si potrebbe aspettare. Potrebbero cambiare nome anche a questa trasmissione, potrebbero cambiare conduttore, che cazzo ne so. In America una squadra storica come la Juventus in Italia, ma adesso non voglio esagerare, che cazzo ne so, faccio un esempio, come la Lazio, la Roma, una squadra storica del football americano, sì, che si chiama Washington Redskins, pelle rossa, hanno come simbolo il profilo di un pelle rossa, tra l'altro, che negli anni hanno sempre fatto delle donazioni, non gliene è mai fregato un cazzo, sì, c'erano proteste naturalmente perché dicevano i pelle rossa era un termine dispregiativo, è stata costretta a cambiare nome, hanno rotto il cazzo gli sponsor, le proteste degli afroamericani per la morte di Floyd, hanno talmente rotto i coglioni, poi magari converrà a questi qua perché faranno grande marketing, sceglieranno un nuovo nome, non lo so. Ma ha cambiato nome, ha annunciato oggi che cambierà nome, cioè non si chiamerà più Pelle Rossa. Siamo in tempi bui, caro David, bui, e tu sei uno dei principali responsabili di questa situazione. Ti dovrebbero non mettere in galera, ti dovrebbero additare come uno dei principali responsabili di questa ondata, di questa ondata di politicamente corretto, questa ondata di moralismo, questa ondata di presunto antirazzismo che non vuol dire un ca... Ma tu dimmi quale male fa una squadra che si chiama Redskins, pelle, che male fa? Ma dillo ai tuoi amici americani, l'America è la patria delle libertà, infatti è la patria delle grandi contraddizioni. Sei arrivato il filosofo adesso, alle 19:24 no, vorrei provare a ragionare con te su questo, perché proviamo a pensarci, amiche ed amici, sai quel tono dei comizianti di sinistra? Cari amiche e cari amici, ragioniamo insieme. La grande democrazia americana. Andrea da Massa. Andrea. Sì, pronto? Dimmi Andrea. Senti, ok. Sì, ciao, buonasera a tutti. Guardi, volevo fare delle precisazioni per quanto riguarda il distanziamento sociale a bordo. Io vado ai matti. Quando uno vuole fare le precisazioni, già di base vado ai matti, sì. Però ti lascio parlare tranquillamente. Già di base voglio fare delle precisazioni, già mi manda fuori di testa. Per quanto riguarda il distanziamento sociale a bordo, in pratica è l'ENAC, l'intervenzione. Ma grazie al cazzo, non mi interessa chi lo decide, non me ne frega un cazzo, trovo contraddittorio, Andrea, che non si possono mettere la roba nelle cappelliere, mentre alla fine i posti uno si siede, uno accanto all'altro tranquillamente. No, sarà contraddittorio o no? Non è così. L'ho visto con i miei occhi. Fatelo spiegare. La normativa dell'ENAC. Ma chi se ne frega? Spieghiamola bene, spieghiamola nel dettaglio. Il distanziamento a bordo, se le compagnie mantengono il distanziamento a bordo, allora possono portare i bagagli nelle cappelliere. Oppure se le compagnie non mantengono il distanziamento a bordo, vanno in stiva. Ma chi se ne frega? Ho capito. Ma perché? Ma qual è la logica? Non so dove sia la e appunto logica, quello voglio capire, che me ne frega, ho capito che è così. Aerea che si vede che preferisce pagare le multe, fa un po' come cavolo gli pare. E chi sarebbe, quale sarebbe? Ryanair è una compagnia aerea che sì, c'ha la sede sociale in Irlanda. Ma fanno benissimo. Sì, è vero, con Ryanair si viaggia tranquillamente col bagaglio. Adesso spariranno fanno i paradisi benissimo fiscali. Non so quanto sarà sicuro il volo senza distanziamento sociale a bordo. Ma guarda che è uguale, ho viaggiato ho preso 4 aerei negli ultimi 2 fine settimana, è pieno, non c'è nessun distanziamento sociale, nessuno. E chi li ha pagati questi aerei? Uno, io, l'altro, dove sono andato? Chi li ha pagati? Federico, mamma mia, incredibile. Senti una cosa, all'inizio della trasmissione sì. ha detto che Porru, secondo me, ha detto una gran cazzata. Su che cosa? Cioè, non lo so, ricordo. Sui ragazzi da discoteca. I ragazzi continuano a fumare quando all'anno muoiono 50.000 persone che hanno i polmoni. Dunque? Quindi i ragazzi fanno così perché non pensano al futuro e loro sono, certo, ragazzi, hanno il cervello da ragazzi. Le cazzate le abbiamo fatte tutti, ha ragione, esatto, questo signore. Non si possono, bravo, prendere, bravissimo, ad esempio i ragazzi. Federico, i ragazzi sono cazzoni. So. Federico, scusami un attimo, bravo, punto fondamentale, volte, sì, punto fondamentale di Porro, scusami, sì, è un altro. Sì. Punto è un altro. Lui dice: è inutile, Porro, che continuate. Adesso, ha fatto una gara d'appalto unico, ha fatto la stazione appaltante e ha dato l'incarico a Porro. Guarda, scusate, Federico, la cosa è molto semplice: è inutile che si continui a vietare l'assembramento. Poi, comunque, le piazze sono piene, il distanziamento di fatto non c'è. Non ci può essere il distanziamento. È inutile questa roba qui. Ovunque vai, inutile, sono andato. È inutile proclamarlo, scusami, perché tanto, Cruciani, di fatto le spiagge sono piene di gente una accanto all'altra. Cruciani, gli aperitivi si fanno, la vita si fa, la gente vive, non rompete il cazzo. Io, se avessi 15, ma tu che fai nella tempo, vita? Non le incontri le persone? Non le incontri, ma le persone? Certo, e che fai? Ma però cerco di incontrarle con un certo criterio. Cruciani. Ma che vuol dire con un certo criterio? Se vai in vacanza in un bar, dove cazzo vai a un metro di distanza? Ma io entro dentro, mi metto la mascherina, bevo, ma rimetto le asche e poi me levo la mascherina, buona, e tengo le persone. Ma tu non hai viaggiato allora in questo periodo? Non sei andato? Vai al sud, nessuno ha la mascherina. Vai, io sono andato in Puglia, nessuno ha la mascherina. Se non vuoi viaggiare, Cruciani, non viaggiare. Cruciani, che cazzo vuoi dagli altri? Che invece vogliono viaggiare? Mi puoi concedere 10 secondi? Sì, ma vai, tranquillo. Me li concedi, perfetto. Secondo te, tu prendi un foglio di carta a 4, quante volte lo devi piegare per arrivare da qua sulla Luna, da qua alla Luna, dalla Terra alla Luna? Meno di 50 volte, meno di 5.000 volte o meno di 50.000 volte? Ma non lo so. Dimmelo. Questa è una progressione geometrica, Cruciani. Se cosa prende... Perché se la cosa comincia a andare storta, non si ferma ma cazzo, più. Ma quello è il principio di precauzione, vale per tutto, amico mio, vale per tutto. Ma se non viviamo, moriamo. Se non viviamo, moriamo. Se non torniamo a vivere come prima, così, moriamo. Il problema è che se viviamo così, ma così come? Ma così come? Non c'è stato nessun aumento. Parenzo ci ha fatto due coglioni così per Napoli, non è successo un cazzo dopo quella cosa di Napoli, della festa di Napoli. Per fortuna. È passato un mese, non è successo un cazzo. È la nostra irresponsabilità. Si chiama fortuna con la C. Ma esatto, che fortuna, esatto. Ma non dire cazzate. Capito? Fermo là, ha ragione Tarro, viva Tarro. Fermi tutti. Ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Rimi ridotto sul lastrico, Menagramo. Se ne vada, sparisca! Menagramo, rime che le licenzi. Menagramo d'un Menagramo. Bruttami! Dica, dica, dica, parli, parli, dica! Ma io non ho capito, ma la puttana della Salaria che adesso smette perché non vuole farsi ammazzare e ha detto anche che da quando tu hai iniziato a chiamarla o le Iene, onestamente non so se hanno fatto un servizio su di lei o che, è diventata famosa, ha fatto un sacco di soldi, ma non si può permettere un cazzo di mini appartamento in affitto in cui portarsi i clienti, in cui aspettare lì i clienti, stare lì, i clienti arrivano lì. Cioè, non è che per forza deve avere la bicicletta in mezzo alla strada, no? Io consiglierei a Susanna di prendere una stanza, una casa in affitto, pagare circa 600 euro, 700, quelli che ti chiedono, tanto li ripaghi in poco tempo e puoi continuare tranquillamente a fare il tuo lavoro, tanto è abbastanza chiaro che l'hai smesso per colpa di questi speronamenti. Quindi per tutelare la tua salute credo che questo sia il modo migliore anche per continuare a fare economia, che comunque, cara mia, non avrai pensione purtroppo, quindi devi mettere ancora soldi da parte. Non fanno mai male, perché non sono mai troppi. Un abbraccio, amica mia, ciao. Ma Crociani, io sono in ritardo con i podcast, ma la gente che ti addita te per Susanna della Salaria ti incolpa di cosa? Nessuno sta sottolineando il fatto che il racket molto probabilmente le ha fatto del male, le hanno tentato e l'hanno dissuasa ad andare lì perché aveva molto successo, e nessuno si indigna, nessuno dice bisogna andare a scovare sti stronzi e metterli in galera. stanno a parlare di te e che te eri quello che la invogliava a fare la mignotta. Ma qui veramente la gente ha perso il lume della ragione. Allora, come sai, David, in un piccolo paese della Calabria sono arrivati alcuni dal Bangladesh col Covid. E ovviamente gente protesta, la gente si incazza. C'è una nostra inviata. Hanno torto a incazzarsi, campo. Ma chi se ne frega? Hanno torto a incazzarsi. Hanno torto a incazzarsi secondo dramma, te? Hanno torto a incazzarsi secondo hanno sì, torto. Te lo posso I dire cittadini dritto. Hanno torto. Posso dirtelo sì, dritto. Ma certo, posso dirtelo lo con devi la nettezza dire. Lo devi che dire. Mi che lo mi contraddistingue. Lo devi posso dire. Sì, hanno torto, sì, hanno torto in casa. Sì, dunque, Parenzo sta dicendo che i cittadini perché, di Amantea, questo piccolo paese, sì, che stasera saranno hanno collegati torto, e saranno sì, incazzati probabilmente, ai... ma non me ne frega niente. Fai benissimo non a collegarli, ottimo, sì, la realtà. No, no, a me la non realtà, mi interessa la realtà. La realtà, dai, la rivolta tutta sedata però di già, purtroppo sì, purtroppo sì. Dai, ma come si fa, dai, a sedare la rivolta subito, sì, dai. Lasciatela vivere, lasciatela. Io l'ho detto alla RAI, gliel'ho detto. Ma è una cosa, bisognerebbe naturalmente introdurre il pagamento del gettone della rivolta, io lo chiamo naturalmente. E la RAI però non lo può fare questa cosa. Cioè nei momenti in cui c'è una fiacca politica e per cui non c'è sì, notizie naturalmente sì, sì, introdurre sì. dei fondi spese per incentivare naturalmente la rivolta. Potrebbe non essere. Si può naturalmente distruggere in questo modo la televisione, non è possibile. Sì, è vero, naturalmente. Sì, non è sì. possibile. Naturalmente. Dunque, non mettere possibile. Degli agent provocateur si potrebbe l'ho dire. L'ho detto alla RAI, naturalmente si sono arrabbiati. Ho detto, no, non si fa servizio pubblico. Dai, servizio ancora pubblico, questa vecchia idea. Ma come si fa? Allora, ad Amantea che succede? Succede che la gente è incazzata, gente che si stende per terra, eccetera. A un certo punto arriva il nostro amico Polimeni. Chi è Polimeni? Che vuole raccontare, un giornalista locale che vuole raccontare la situazione. Litigano tra di loro, pezzo straordinario, senti. È la quarta diretta, speriamo che va bene perché qui anche la connessione si è messa contro sta città, una cosa incredibile. Siamo in diretta con Caterina Ciccia. Vedete Ciccia. Anche dietro di me ci sono le forze dell'ordine, inquadriamo perché sono qui tutti a rispondere, a dare risposta alla comunità. Quando però c'è da rimboccarsi le maniche e dare praticamente. Ma che stai la dicendo? Città, scusate, ma che cosa stai dicendo? Non riusciamo a fare ma niente. Che cosa stai dicendo? Vieni qua a dirlo in diretta. Ma perché viene a farsi filmati? Ma perché? Ma chi sei tu? Ma chi sei tu? E chi cazzo sei tu? Devi parlare di un cazzo, hai capito? Vieni pagato per parte. Vieni pagato per parte. Ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo stai dicendo? Ma tu non capisci le persone. Ma che cosa dici? Ma che non sei altro, non mi permetti. Cioè praticamente questo qua fa la diretta, lo accusano di stare lì solamente perché ci sono le disgrazie e di non raccontare le cose che non funzionano. Beh, naturalmente, e lo aggrediscono tutti contro il cronista, bellissimo, senti. Naturalmente raccontare le cose che non funzionano non fa ascolto in alcun modo, naturalmente. Le storie, dice qui i problemi e il traffico. Ma dai, se hai problemi di traffico chi se ne frega, vai in comune. Vai in televisione, dai. Maleducato! Maleducati! Maleducato! Sei un disonesto intellettualmente! Intellettualmente sei un disonesto! Intellettualmente sei un disonesto! Gravissimo quello che state facendo! Non avete capito nulla di questa comunità perché non avete il coraggio di votare le persone oneste che mi hanno distrutto questa città. Vai. Meraviglioso, fermo là. Mario da Brescia, vai. Mario da Brescia. Pronto, Parenzo, voglio parlare con Parenzo. È qua, dimmi. Non c'è, è andato via. No, torna dopo, no, torna più tardi. Che io per un'esperienza mia personale ho grande rispetto per il lavoro delle puttane. Ottimo. Lo ritengo un lavoro socialmente utile. Sì, assolutamente. Perché va a tranquillizzare, diciamo così, le persone sole che non hanno la possibilità. Io non solo, lavoro socialmente utile, hai detto bene, ma un lavoro socialmente sposate, utile, assolutamente. Ma anche persone sposate che sì, magari si non sa. Trovano più nulla nella moglie. Assolutamente, la mia esperienza personale. Cosa vuol dire? Non trovano più niente nella moglie, vogliono restare con la moglie, scopano con le prostitute, che male c'è? Ma è la normalità, è quello che avviene quotidianamente, che bisogna pure a un certo punto sdoganare con le parole, con i fatti, raccontando le cose, lo sappiamo tutti, ma è così, dunque il valore valore sociale di una prostituta è pace sociale, la famiglia, non c'è dubbio, ma è tutto, cioè è inutile, queste cose quando vengono dette fanno scandalo, è così, la famiglia viene mantenuta, anche l'esistenza della famiglia, la chiesa dovrebbe ringraziare le puttane, è inutile che i preti fanno le battaglie contro le prostitute, i preti se hanno a cuore la famiglia, a te che è successo Mario, scusa? La mia esperienza personale era che io soffrivo di eiaculazione precoce. Avevo paura nell'affrontare la donna, ragazze che conoscevo, perché avevo paura di fare brutta figura. Io andando con le puttane mi sono sbloccato. Beh, c'è sua moglie, però scusi, visto che entrerai nel merito, visto che lei ha questo problema, visto che lei ha questo problemino, aveva. Ce l'ha ancora, poverino. Mi dispiace. Visto che lei ha questo problemino, sua moglie è legittimata ad andare con un altro, ad esempio, allora, no? Sì, io non sono sposato, la fidanzata all'epoca. Va bene, quello che è, insomma. Quello che è. Comunque voglio dire una cosa, caro Mario, a te ti hanno cambiato la vita nel senso che ti hanno guarito dall'eiaculazione precoce, un po' strana questa cosa, come cazzo hai fatto? Se uno ce l'ha pure con le prostitute l'eiaculazione precoce. Sì, però ho preso più sicurezza di me stesso, perché è un conto fa brutta figura con una puttana che non conosco, è un conto fa brutta figura con delle ragazze che invece conoscevo, che potevano male spargere. Con quante voce. Prostitute sei dovuto andare prima di... Io sono un puttaniere. Tu sei un puttaniere, dunque sei andato con tante prostitute e queste prostitute in qualche modo ti hanno guarito dall'eiaculazione precoce. Questa sono felicissimo, e sono felicissimo, vado anche con trans. Scusami Mario, però voglio capire, sei fidanzato, non sei fidanzato? No, io sono solo. Sei solo. E dunque, non faccio del male a nessuno. No, però voglio capire, tu vai pure con i trans? E perché vai con i trans? Anche con i trans, è roba buona però. Che vuol dire roba buona? Roba giovane, roba carini, belli. Bravi a fare, quello non c'è dubbio, lo dicono tutti che sono molto bravi sessualmente, perché naturalmente è la loro specialità, campano con possiamo quello. Possiamo andare nei particolari? I pompini che fanno i trans, tante donne se lo sognano. Questo mi sembra... lo fanno con amore, con questo con però è un po', Mario, questo qua, devo dirti la verità, è un po' un luogo comune questa roba qua, lo ripetono in molti, trans fanno dei pompini straordinari, perché dovrebbe essere straordinario, più straordinario il pompino di un trans rispetto al pompino di una donna, insomma, ragazzi, non c'è motivo, e chiaramente chi lo fa di mestiere ci mette anche quello per avere, per salire di livello. Attenzione Cruciani, la donna puttana lo fa solo per i soldi. Il trans lo fa per i soldi, ma lo fa anche per una scelta di vita, un piacere personale. Ci mette quel tanto in più. Tu dici, secondo me è uguale come nelle professioni, c'è chi ci mette il cuore, c'è chi non ce lo mette, c'è chi ci mette intanto il sottofondo, possiamo sentire come dire una base musicale abbastanza chiara, una base. Però Mario, c'è la divisione che c'è nel lavoro, c'è chi ci mette passione, chi no. Cioè non c'è la differenza tra il trans ci mette più amore nel pompino e la donna, la compagna. Ti dico solo i tempi. Io pure scusami Mario, però posso dirti, io ho avuto fidanzate che facevano dei pompini meravigliosi e delle fidanzate che facevano dei pompini normali. Fidanzate, compagne, eccetera, alcune facevano dei pompini normali, anche con qualche difficoltà, con una tecnica non sopraffina. Altre invece erano delle bombe da questo punto di vista. Che ti devo dire? Cioè, lì è una questione di passione, e anche lì insiste ancora questo tappeto. Ma anche i tempi con una donna quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, con un trans che si trattiene anche mezz'ora. Ma ho capito, ma anche lì, dipende. Mamma mia, avete svenduto la radio ai transessuali, una cosa incredibile. Ma perché mamma mia? A Porro e svenduto ai transessuali. Ma dove vive Parenzo, insomma? Ma dove vive? Sì, vive nel mondo dell'iperuranio. E facendo, scusami Mario, considerando una settimana, quante volte... Io spero che sua moglie ascolti la sua amica. Ma non ha moglie, compagna. È da solo, te l'ha detto. Spero che è da solo perché è un disadattato. Povero disadattato. Scusami Mario, voglio capire una cosa. In una settimana quante volte vai? Cioè, ormai sei dedito ai trans oppure vai anche alterni. Donne trans, ma anche donne di colore. Io vabbè, che c'entra una, anche donne di colore? Cosa vuol dire? Anche donne di colore. Ho una donna di colore bravissima, gentilissima. Ma cosa vuol dire? Mi ricordo, perdone, pure con le negre! No, ma ti ricordi Mario Brega? Mario Brega, sì, straordinario. Certo. A un certo punto credo che sia comunque chiamano qui una caterva di ignoranti incredibili. Bisogna dirlo anche questo. Fai una distinzione una distinzione tra ignoranti, non ignoranti, una caterva di somari, di somari. Senti. Pure con le negre vai, pure con le negre. Stai dicendo che facevi la parola alla figlia del destino, ti ha! La Zanzara. Io sono qua di domenica per dare voce alla gente, non per divertirmi. Ti diciamo grazie, grazie. Ma chi sei tu? Chi sei tu? Dimmi perché devo andare via? Perché devo andare via? Perché devo andare via? Ma chi sei tu? Chi sei tu? Ma chi sei tu? Non rappresenti la comunità tu! Non la rappresenti! Non la rappresentare! Non la rappresentare! Vergognati! Vergognati! Vergognati! Sei un vigliaccio! Un vigliaccio sei! C'è un po' di rabbia, però... Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice? Allora, grande ritorno alla Zanzara, sono molto contento. Alessandro Melucci, buonasera. Buonasera a voi. Eccoci qui. Caro Alessandro, voglio subito chiederti una cosa. Lo stato d'emergenza, perché l'Italia è l'unico stato, sarei pure tu un po' incazzato per questa cosa qua, l'unico stato nel mondo a dichiarare una situazione eccezionale, quando però i numeri sono quelli che sono, lo sappiamo. Non dico che siamo usciti del tutto, però i morti sono pochi, i ricoverati ancora meno. Ma di che stiamo parlando? Dimmi. Ma ci sono stati 15 paesi che hanno dichiarato la stato d'emergenza, come vedete europei, non uno l'ha confermata, quindi questo dato statistico è incontrovertibile. Io credo che il grande giudice costituzionalista, già membro della Corte Costituzionale, Sabino Cassese, che certamente non è un eversore né un sovranista, ha dichiarato l'assoluta illegittimità di questo fatto. Quindi mi pare che i fatti parlino da sé. Cioè, ma è una specie di nuova dittatura di Conte? Che cos'è questa roba qua? Ma io, vedete, io non riconoscerei neppure a Conte lo status e la statura di dittatore. Dittatore può essere Erdogan, no? Che ha un partito, ha una forza. Io credo che questo avvocato di Voltura Rappola sia più un procuratore speciale che avrebbe avuto. Chi c'è dietro? Venendo dallo studio Alfa, venendo dal Collegio Betania, venendo dalle presentazioni della Merkel e di una certa situazione della finanza europea, abbia il compito di gestire l'Italia in una certa direzione. Ma chi c'è dietro? Tu hai parlato nei giorni scorsi di ordine mondiale, di nuovo ordine mondiale, di satanismo. Hai parlato anche di satanismo. Che c'entra il satanismo? Mi pare che il satanismo c'entri poco, però generale c'è un nuovo ordine mondiale di cui si vedono molti capisaldi, e anche qui non devo citare nessun altro che un personaggio che può piacere o non piacere, ma che è sicuramente autorevole, dell'attuale presidente in carica degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha parlato di un rapporto stretto tra mondi del distretto americano, mondi della finanza internazionale e ambienti pedofilo satanisti, di cui per esempio la vicenda Maxwell, che su tutti i giornali. Che c'entrano col Covid questo? Pedofilo satanisti. Direi che non c'entra direttamente con Conte. No, col Covid, aspetta, fermo un attimo. Che c'entra col Covid, aspetta. Però? Cioè, questi ambienti perché dovrebbero favorire, diciamo, la permanenza dello stato di emergenza o comunque di una situazione di terrorismo, come dici te? Io non lo so, credo che, voglio dire, bisogna sempre interrogarsi sul cui prodest delle cose. No? Allora? La chi giova non è un criterio generale, ma certamente il mantenimento dell'Italia in un clima di emergenza, di incostituzionalità, di situazioni in cui si possa legiferare con dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri senza passare nel Consiglio dei Ministri, è qualcosa che per esempio potrebbe vulnerare molto la democrazia, qualora questo servisse a rinviare le elezioni regionali, per esempio. E quindi questo danneggerebbe ulteriormente la sovranità nazionale, quindi consegnerebbe c'è un disegno, secondo te? C'è qualcuno che dietro sta tramando per mantenerci in una situazione? Ma ovviamente sono in molti a avere dei disegni. Ognuno insegue i suoi disegni, la BCE insegue i suoi disegni, l'Unione Europea insegue i suoi disegni, le grandi banche internazionali seguono i loro disegni, i partiti che attuano l'attuale maggioranza, il PD e i poveri 5 Stelle incollati alla poltrona, c'è una concordanza di molti disegni. Allora, ad ognuno di questi disegni il mantenimento di uno stato di emergenza può servire a qualche cosa. Senti, ma tu ti sei impaurito per la questione dei microchip, però la questione dei microchip nelle mascherine non esiste, cioè continui a considerare inutili le mascherine, totalmente inutili le mascherine. Ma non lo considero io mi attengo a, come dire, a professori, come dire, virologi e infettivologi come il professor Bassetti, come Zangrillo, come Clementi, come presidente dei virologi italiani. È evidente che le mascherine in questo momento non servono assolutamente a niente, questa è una cosa ovvia, ma la sanno anche bambini, io credo. Ma anche all'interno, all'interno dei posti chiusi non serve a nulla? Ma forse servono a contenere un po' gli sputacchiamenti che le persone fanno, ma direi che le mascherine all'aperto, come vengono utilizzate, sono una cosa totalmente priva di senso. No, all'aperto è vero, tu trovi, Davide, trovi delle situazioni assurde. All'aperto persone che sono mascherine in realtà la portano male, sono mascherine usate. Cosa ne sa? Ma che ne sa? Ma è dall'inizio che si occupa della... Cosa ne sa? Ho capito. Cosa ne sa? Ma perché non dovrebbe sapere? Ne sa quanto te, ne saprà più di te. Le messe sataniche. Le messe sataniche. Noi, Parenzo primo, aspetta un attimo. David Parenzo, primate della chiesa autocefala della Zanzara, dice: non posso più ascoltare ste cazzate. Scusate, ma lo dico senza urlare, senza urlare, veramente. Il vaccino lo farai, il vaccino. Non è più possibile. Alessandro, sul vaccino è uscito adesso uno studio, come dire, che viene dagli stessi ambienti del Stadio Oxford, che avrebbe dovuto fare il vaccino, e che ci sta spiegando che i virus RNA, che tipo coronavirus, non danno un'immunità permanente. Quindi è una cosa totalmente priva di senso parlare del vaccino. Dunque non lo farai tu. Se dovesse uscire uno pseudo vaccino e c'era un vaccino. Questo l'aveva già detto Montagnier e l'aveva già detto. Sì, ma tu lo farai o no? Se ci dovesse essere a un certo punto qualcuno che dice: abbiamo trovato il vaccino, eccolo qui, lo farai o non lo farai? Possiamo essere sicuri che è una sola. Una sola, cioè possiamo essere sicuri che ha detto, e dunque, ha detto una sola, tutto il mondo lo cerca, la gente vallo a dire a quelli che sono morti, vaglielo a dire a quei parenti di quelli che sono morti, che se ci fosse stato il vaccino. Noi, Parenzo primo, primate della chiesa autocefala della Zanzara, dice: non posso più ascoltare ste cazzate. Quando bene, tu dici tenteranno, allora, quando, scusami, noi, Alessandro, aspetta un attimo, aspetta un secondo, voglio capire una cosa. Tu dici non perdiamo tempo, però non perdiamo tempo. Allora, una presenza inutile. Quando tu dici tenteranno un altro lockdown, chi è che tenterà un altro lockdown? Cioè, chi ha fatto il primo lockdown? Non lo so. Immagino che chi ha fatto un decreto di emergenza adesso intenderà utilizzarlo. Ma tu eri favorevole al lockdown, però, non è contro. Nel momento in cui è stato fatto era necessario, poi il vaccino, come dire, sarebbe stato l'orizzonte di senso che doveva arrivare come una situazione salvifica. Questa situazione salvifica finale, anche se piacerebbe a molti, all'AstraZeneca, a cui sono stati già stanziati 800 milioni di euro, di cui 180 dall'Italia, dichiarato da il ministro Speranza, non serve questo vaccino neanche nella bloccare la trasmissione del virus tra i macachi. Quindi gli italiani valgono, questo l'hanno detto l'Università di Oxford, non io. Parenzo, non serve. Davide, è inutile che ti scaldi, non serve. E se non serve, non serve. Qualcuno non serve, dice che non serve. Che non serve. Qualcuno dice. Allora, il mondo lo sta cercando. Ma non l'hanno mai detto quelli che lo fanno. Basta diffondere stronzate! Ma no, non funziona neanche nella trasmissione di Parenzo primo. Allora, aspetta, zitto un attimo, ti devo chiedere un'ultima cosa, Alessandro, perché nei giorni scorsi hai detto che quella di Floyd ti sembra una grande messa in scena. Ora, adesso però. Quella di Floyd ti sembra una messa in scena che addirittura è una con dei finti poliziotti, cioè una messa in scena per me. Non lo so, io so soltanto. Ma non lo so, e dice non lo so, stai zitto, no? Questa questione degli Antifa è uno dei grandi schifi della storia europea, degli Stati Uniti e mondiale di questi giorni. Uno schifo assoluto, finanziato dall'amico di Parenzo Soros, che finanzia ampiamente gli Antifa, i Black Lives, ma per fortuna gli americani hanno capito il trucco e li hanno mandati. Sì, ma non è finta, non è finta quella cosa là, però la morte di Floyd non è finta. Non lo so, e dice non lo so. Sì, è un argomento che non mi interessa. Hai detto tu che era. Ma lo hai scritto tu! Rispetto al. No, non ho scritto io, ho ritwittato una delle tante. Ho ritwittato perché non c'è Parenzo. Una delle hai ritwittato una delle tante puttanate che ci sono in rete. Una delle posizioni e una discussione. Ma cosa ritwitti? Non so se sia vero, ma se fosse vero sarebbe plausibile, perché dietro quella cosa lì c'è uno schifoso complotto del tuo amico Soros. Balle, vergognati, lavati la bocca quando parli di Soros, sciacquati la bocca, sciacquati la bocca. Lurido speculatore. Ma quale lurido, speculatore? Sciacquati la bocca. Ha attaccato la lira, ha colpito la lira, ha attaccato l'Italia. Ti rode il culo, ti rode il culo, perché quello ha una fondazione che finanzia il dissenso del tuo amico Orban. Ti rode il culo solo perché lui finanzia il dissenso ed è per la democrazia e per i diritti. Ciao, ciao. Buona serata, un cazzo. La Zanzara. So che abbiamo tante telefonate. La Zanzara non può chiudere, non può. La Zanzara non può chiudere, non può. La Zanzara non può chiudere, non può. Sono deluso e sto piangendo. Vieni. E sto piangendo. So che abbiamo tante telefonate. Dottor! Sì, io vedo molto negativo. E per rimanere in tema, io piscio sui piedi della mia ragazza mentre facciamo la doccia. E poi glieli lecco. I love my radio. Buongiorno, sono Gregorio d'Anversa. E anche io amo l'anal sex, il blow job, il foot job e il rim job. I love my radio. La Zanzara è l'unico programma dove al minuto 36 del podcast Cruciani viene accusato di parlare di sesso troppo spinto e tu rimbalzi come al solito le accuse. Al minuto invece un'ora e venti si parla di doppie anali, scene lesbo, e chi più ne ha più ne metta. Sei unico, Cruciani, non lasciarci, ci mancherai. Caro capestone, ti aspetto per fare una bella giornata a casa mia. Ma guarda che è la stessa, è la stessa che ha cominciato a guardare in onda. Lei di questo si deve occupare. Se lei butta un occhio su Capezzone, tutti noi ne usciamo più fortunati, fidati. Si occupasse di Capezzone, così quando Capezzone va dalla signora, mentre lei comincia a fare le sue cosette, lui comincia a dire: allora, uno, due, tre. Quello è capace di contare anche durante un amplesso, te lo dico io. Quello allora, è capace di contare. Uno, parti da due. Parti da uno, esatto. Poi scendi giù, due, e infine ci penso io, tre. Quello è così, te lo dico io. Conta. Allora, abbiamo dalla provincia di Bologna Codra, se non sbaglio. Signor Codra, dovrebbe essere albanese. Albanese di origine, sta qua in Italia da un sacco di tempo. Forse da è Codra, mi... signor no, Codra. No, Codra. Sbaglio, Codra, come ti chiami? Codra, di cognome. Dimmi, di cognome ti chiami Codra. Dimmi Codra, dimmi. Grazie di essere in Italia, amico caro. Hai detto, scusa, aspetta. Grazie di essere. Cosa hai detto, Davide? Non ho capito. Detto, caro amico Cobra, grazie di Codra, essere qui in Italia. Codra, che Cobra? Vabbè, Codra. Quello che è, adesso io non lo so. Comunque, grazie di essere qui, amico albanese. Tutto qua. Dimmi, Codra, dimmi. Cosa vuoi che ti dica? Peggio di così non può andare. Stanno arrivando in due giorni un migliaio di profughi. Cosa devo dire? Metti di bene più? Il telefono un attimo, Codra, metti bene il telefono, stacca l'auricolare, dai. Non c'ho auricolare per niente. Viva voce, qualcosa hai. Viva voce, qualcosa hai. Non questo si sente qua, cazzo. Questo è un albanese che critica gli immigrati che arrivano. Ma siamo alla follia qui. Io ti ho detto grazie di essere in Italia. No, Parenzo, senti qua, Parenzo, non fare stupido. Dimmi. Io. Te lo sai come sono arrivato io in Italia? Io stavo in Albania lavorando lì. C'avevo un mio amico qua, vuoi venire? Ho detto io voglio venire, ma regolarmente. Mi ha fatto il contratto. Sono venuto qua con il permesso dello Stato italiano. Ma e che così cos'è? Devono venire pure loro. Dunque tu critichi quelli che arrivano, qual è la storia? Spiegami perché hai chiamato. Ho chiamato per questo. Che in Italia non possono stare tutto l'Africa, no? No, beh, quello è sicuro, quello è abbastanza evidente. In una macchina, se ci stanno 5 persone, non possono mettere 10 o 20 dentro. Davide, tu l'avevi, Davide, tu l'avevi. No, ma io. Davide, tu l'avevi ringraziato, Io ti avevo ringraziato, amico caro albanese, ricordati quando negli anni passati l'Italia, secondo me giustamente, accoglieva i tuoi fratelli. Quindi adesso il fatto di avere l'albanese della Lega, mi sembra che siamo al delirio. Comunque fate come volete. Uno, fate come volete. Due, basta telefonare alla Zanzara. Tre, leggetevi un libro. Codra. Parenzo, Codra. I tuoi ringraziamenti non li voglio. Io sono un cittadino onesto e voglio, certo, voglio legalità, certo. In Italia ci vuole legalità. Ci vuole legalità. Non, e chi vuole? Cani e porci non possono entrare tutti i giorni. Ma come cani? Ma se lui la pensa così, la pensa così. E che cazzo devi fare? Se dice che entrano cani e porci, dai. Parenzo, guarda che tra 5-10 anni qua iniziano delle rivolte, degli disordini che te neanche puoi immaginare, hai capito? Va bene, Codra, Adesso abbiamo l'albanese che dice: allora non è più possibile che non c'è più italiano, vero? Ma come italiano? Sei albanese tu? David da Roma, David, vai. Oh, buonasera, eccomi qua. No, ma volevo dire allora che va chiusa la Zanzara perché è un programma in mondo. Scusami. Pronto? Dimmi, Davide, dimmi. Ok, ciao Cruciani. Allora, io volevo fare una grande segnalazione. Io volevo dire che sono andato a comprare la tuca da un bangladino due giorni fa. Sì. E un bravo cristiano stava dietro la cassa, era vestito tipo sempre ninja, però era un bravo ragazzo. Sono a comprare la tuca al volo perché mi serviva. Allora? E beh, a un certo punto mi è uscito a piedi nudi, te lo giuro. Allora che stava a piedi nudi, allora chi se ne frega? No, ma come che se ne frega? Scusami, quando sei Arcona e devi uno scaffalista a piedi nudi. No, ho capito, ma quello sarà dentro il suo negozio. Se tu vuoi entrare nel suo negozio, se ti fa schifo, non entri. Ma sì, ok, ma te fuori, ma mica mi fa schifo. Io mica so razzista o fascista. Io ci vado al negozio del bangladino, però ti rimette qualcosa. Ma che vuol dire, scusa? Adesso non mi pare che il problema dell'Italia in questo momento sia come va vestito quello che tu chiami un bangladino. Se si mette le scarpe, non si mette le scarpe. Alla fine sei entrato o no? L'hai comprata, l'insalata o no? No, alla fine io ho lasciato. Io ho detto, scusa, ma hai fatto matrimonio mettere in parte sandali, fatto quello, se voi siete forti con i sandali, cose di questo genere, e lui mi fa così, tipo per dirmi no, cioè per dirmi no, Beh, allora, detto, come no? Ma non se li voleva mettere, ma saranno cazzi suoi o no? Ma come tu fatti? Ma questa è una cosa strana. Guarda, io adesso dico sempre... io vado a questionare di che razza di calzini hai tu, come sei vestito tu. Vabbè, quello però è il suo negozio. Se tu c'hai un esercizio pubblico, ti rimetti i sandali, perché scusami. Ma sì, ho capito, ma non mi pare un problema questo di sai quante camerieri si scaccolano, ma ho capito, ma d'accordo. Guarda, ma non scusa, io ho un'attività aperta al pubblico, eppure sto attento a tutto quanto perché è normale. Ma pure mi piglio, certo, quando gioca al mercatino, mica stai a piedi nudi, pure mi io sa che quando aspetti qualcuno ti sta almeno composto, poi ci è piedi nudi da dietro alla cassa. Ho capito, ma che vuoi fare? È indigena la faccenda, cioè non è fattibile. Alla fine te ne sei andato? Per forza, che facevo? Ho detto, ma scusa, ma che sei scemo? Che fai? Esce a piedi nudi? Questo dice, vabbè, io sto così, sto qua dentro e sto così, ma è sbagliato perché adesso non voglio fare un discorso razzista, ma se tu stai qua e c'hai un'attività e stanno data la licenza e io ti voglio bene, ma devo mettere un paio di scarpe. Questo è perché loro sviluppano il gene, cioè loro hanno un gene un po' particolare, i ciechi che sviluppano la capacità di sentire più forte perché comunque sviluppano di più un senso. Allora? Loro, siccome gli manca l'intelligenza, sviluppano di più la deficienza perché manca non è possibile. Ha parlato il genio di Leonardo qua. Ha parlato Leonardo, il genio. Il genio di Leonardo. Se c'è un esercizio pubblico, è normale che dia un paio di scarpe, ma non lo so Dio perché sono strano, ma perché è normale che dia un paio di scarpe. Ma sì, ho capito. Ma adesso tu avevi bisogno dell'insalata, quello ti ha dato l'insalata e gli rompi pure i coglioni perché non ha le scarpe. Tornato al supermercato dove c'è sta uno che è scarpe che mi ha dato l'insalata, perché era normale. Ma scusa, tu sei andato mai a comprare l'insalata con uno adesso che cosa vuoi fare? La guerra ai bangladini che vendono nei negozi a piedi scalzi, e quello sarà a piedi scalzi che sarà abituato così, sti cazzi, tanto mica te la dà coi piedi l'insalata, no? Te la darà con le mani. Magari dopo si è fatta una bella ravanata coi piedi, questo non lo so. Comunque, insomma, di cosa stiamo parlando? Non ho capito. Il fatto che tu sei schifato da questi piedi del bangladino. No, io sono schifato del fatto che comunque se ci stanno delle leggi devono valere per tutti, ma non qua, è possibile. Ho capito, non è che ci sono le leggi per cui tu non puoi stare con i piedi scalzi dentro un negozio. Dai, su, non diciamo cazzate. No, ma non fa parte proprio del... Ma scusami un attimo, no, Crucia, ma io voglio dire una cosa. Ma se tu vai al supermercato e vedi uno scaffalista a piedi nudi, no? Ma non ti sembra strano? Non sembra una cosa fuori norma? Non ti sembra qualcosa che sta al di là di tutto? Ma non lo so, Davide, non lo so. Ciao. Allora, c'è Vincenzo da Brescia. Vincenzo, dimmi. Oh, ciao Giuseppe. Dimmi. Mi senti? Sì, ti no, sento. No, io volevo soltanto mandare a fare in culo tutti quei pezzi di merda che vanno in bicicletta. Guarda che qualche giorno li devo mettere sotto, devo sentire quel bel rumore tipo cracker. Ma come bel Madonna. Rumore tipo cracker? Non ho capito, cioè vuoi investire quelli che vanno in bicicletta? Che sei Madonna, se mi fanno... No, io guarda, io sono troppo educato, sono troppo buono. Ma tu che fai? Il camionista, che fai? Sì, porca miseria, ma c'è proprio una maleducazione da parte loro. Ma hai un soprannome? Hai un soprannome come camionista o no? Tutti hanno un soprannome. Ma no, ogni tanto mi chiamano il Brigante Lucano. Il Brigante Lucano, Vincenzo. Ecco, non promette nulla di buono un signore che si chiama il Brigante Lucano. Vincenzo, non ho capito Pareto, bene. Tu dovresti essere d'accordo con l'ideologia dei briganti, dai. Io non ho capito una cosa, veramente, tu ce l'hai con i ciclisti, perché ce l'hai con i ciclisti, scusa? Perché sono maleducati, si mettono in mezzo ai coglioni, dove c'è magari una strada con il doppio senso, si mettono in mezzo lì al cazzo, in tre, in quattro così di lato, non ti fanno passare, se gli suoni ti alzano il braccio, ti mandano pure a fanculo, cioè voglio dire, ma non ci avete un cazzo di sabato e domenica per andare a fare le vostre merdose corse di bicicletta invece di cagare il cazzo durante la settimana mentre la gente lavora, dico io. Cioè tu stai dicendo Madonna. Che mentre tu stai lavorando ci sono questi che si stanno divertendo con la bicicletta che ti occupano la strada, Giuseppe, e a te ti viene ti parte la brocca, ti viene quasi la tentazione di che cosa? La tentazione di che? La tentazione fantasiosa, è ovvio che non lo farei mai, dai Giuseppe, no, per favore, via. Però hai capito com'è il discorso? Cioè, a me dici, tante adesso volte mi viene voglia di accelerare. Madonna, non si può nemmeno pensare in teoria. Quello fammelo pensare, è l'unica cosa gratis che si può fare, che cazzo, dai Giuseppe. Cioè ti stanno proprio sui coglioni questi qua perché occupano la strada, tu devi stare lì, tu stai lavorando e questi qua se ne sbattono i coglioni e ti rispondono pure male, qual è la storia? Questa? Mi dà fastidio che se ne sbattono i coglioni quando gli suoni e non si levano dal cazzo, quello mi dà fastidio, basterebbe soltanto che si mettono in fila indiana, mi lasciano passare tranquillamente e basta, e poi ognuno si fa la propria vita, invece no, si mettono in 3 o 4, si fanno una bella chiacchierata, poi ogni tanto strade con le curve, mica puoi fare un sorpasso in 2 secondi, capisci? Mica c'ho la Maserati io. Allora Parenzo, io vorrei vedere te davanti che vai magari a 60 all'ora, 70 all'ora, molto piano, e dietro il Brigante Lucano, signor Vincenzo il Brigante Lucano. Con tu che lo rallenti davanti, con tu che davanti lo rallenti, sì. Io farei quella cosa fastidiosissima che fanno, presenti i trattori, quando tu ti trovi un trattore davanti, sì, no? Che va molto molto lento. Ecco, io andrei con la mia Jeep pianissimo con le 4 frecce, e quando lui dietro, il suo brigante, comincia a suonare, io esco con la mano destra la tengo sul volante, con la mano sinistra la metto fuori, e piano piano faccio venire fuori il dito medio. Figuriamo, che bello, che piano piano lui suona, io tiro giù il finestrino e tiro fuori piano piano, lentamente, il dito medio. Bravo, e saresti coerente con la tua educazione, ma ci mancherebbe altro. E che cosa faresti tu, Brigante, che faresti tu, diciamo la verità, uno che ti fa il dito medio così davanti, che faresti? E che gli devi fare? Cioè, si girasse almeno, perché quando gli faccio i gesti, manco si girano, manco mi guardano, non vedono gli occhi iniettati di sangue. Fermola. La Zanzara. Ciao, sono Ludovica. Ho appena fatto pilsing col mio maestro Maurizio da Genova. Ehi, voi, qualunque cosa stiate facendo, seguite il filo di ciò che vi dico. In poltrone e sofà c'è il metà prezzo su tutta la collezione. In più, si può pagare in 48 mesi senza anticipo e senza interessi. Ma seguite ancora il filo del discorso. Con la collezione Gran Magnificat, divani a soli 900 euro. Meno di 70 centesimi al giorno. Avete seguito il filo fin qui? Allora vi conviene correre nei nostri negozi. Poltrone e sofà, autentica qualità. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione delle finanziarie. La Zanzara. Yo, I wanna take you to a guy. Amore. Dimmi. Ti posso dare un bacio sulle palle? Ma naturalmente. I love your balls. I love my radio. Ciao, sono Samuele da Bologna e adoro bere lo champagne dalla vulva della mia ragazza. I love my radio. È meraviglioso, meraviglioso. Allora, il brigante Lucano è sempre con noi, Yuri però, Yuri, vai Yuri. Da dove chiami Yuri? Da Brescia. Vai Brescia, dimmi, dimmi. Eccolo, no, volevo dire che a me è capitato sulla 21 di avere davanti un tizio che stava superando un altro, ma per qualcosa come un quarto d'ora, finito sorpasso. Ma chi, un camionista, chi? Camionisti, due camionisti, finito sorpasso, mi sono messo davanti a 60 all'ora per una ventina di chilometri, l'ho rallentato, mi faceva fari, mica fari, mi invitava a fermarmi. E io l'ho rallentato per 20 km, così imparate a fare i sorpassi in autostrada, due corsia. Cioè, a te ti stanno sui coglioni i camionisti che fanno i sorpassi nell'autostrada, però che cavolo devono fare? Scusa, quelli devono lavorare, uno va più piano, un altro va più forte. In quella due corsia, ma vabbè, ma se uno va a 78 e l'altro va a 79, che c'è da sorpassare? Se vince, digli qualcosa tu, dai, brigante. Ma che cazzo gli vuoi dire uno così? Ma dai, ma che. Mamma mia, guarda. Ma no, veramente sono senza parole. Ma che cazzo di pagliaccio, si vede che c'ha tempo da perdere questo qua, che cazzo ti devo dire? Ho capito, ma tu che faresti quando uno ti rallenta così davanti e lo fa apposta? Cioè, che fai tu in quel momento lì, tu camionista? Che reazioni hai? Ma che cazzo gli vuoi fare, Giuseppe? È ovvio che non puoi fare quello che pensi, perché la prima cosa che ti verrebbe da fare è accelerare e spalmarlo sull'asfalto. No, quello questo, vorresti fare. Ma che vuoi fare? Cosa fa? Ma cosa vuoi cosa fare? Dice? Yuri. Ma cosa vai a fare? Allora, sai qual è il problema di questi camionisti? Che poi parlano, tu accosti, scendi dalla macchina, poi non si fermano e scappano perché hanno paura. Già adesso successo. Questo qua, guarda, questo non ti consiglio di ripeterlo però, perché magari trovi quello sbagliato, no? Brigante, lo spero di trovare un Che speri? Ma che vuoi fare? Guarda, bello, io sono anche di Brescia, quindi non sono neanche tanto lontano da te. Il giorno che ci incrociamo, vediamo se sono quello che ti caga addosso. Una minaccia? Che camion di merda guidi, sentiamo, dai. È uno Stralis, tutto bianco, non ti preoccupare. Tutto bianco, va bene, quindi? Ho capito, non è che tu puoi fare apposta, Yuri, a rallentare. Cioè, perché fai No, io non faccio apposta, Tu sei un coglione, no, invece lo fai apposta, perché a te ti piace proprio fare queste cose qua. Tu devi mettere in testa che uno ti guida il camion. Lascia stare, non generalizzare. Innanzitutto non vi dovete sorpassare perché c'è il codice della strada, prima cosa. Ma che cazzo di si è vietato sorpassare? Ma che cazzo stai di? Ma quale codice della strada? Non è vietato sorpassare. Ecco, vedi, quel codice della strada, loro conoscono quello che fa comodo loro, non conoscono. Ascolta, noi siamo alla guida tutto il sacrosanto giorno. Allora, ma guarda che non c'entra un cazzo con quello che sto dicendo. Io sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che se voi vi dovete sorpassare, io rispetto per voi, ci portate a mangiare, ci portate i vestiti, portate la qualunque, ok. Però se uno va a 78 e l'altro va a 79, non rompete i coglioni, vi mettete in coda e lasciate andare l'altro. Ma se tu hai la testa di cazzo, che io so benissimo che ci sono nella nostra categoria anche le teste di cazzo, non è che tutti quanti sono teste di cazzo, perché io prima di fare un sorpasso, amico mio caro, mi assicuro che dietro non c'è nessuno per chilometri e se ho la possibilità lo faccio, se no me ne sto dietro con tutta la calma di questo mondo. Yuri, tu vai in bicicletta pure, Yuri, no? No. Ciao Yuri, ciao Vincenzo. Gli scontri per strada, David, gli scontri per strada, camionisti contro automobilisti, naturalmente. Manca ancora, no? Manca la rissa, le telecamere. Ma naturalmente, ormai è naturalmente superato lo scontro con l'Europa, è molto noioso, naturalmente, non ha più senso. E quindi abbiamo deciso di spostare il professor Savona in questo nuovo format, scontro tra camionisti. Del resto, lo scontro tra sovranisti e automobilisti. Certo, più bello, dai, conduce Savona, Paolo Savona, il professore, dai che è bello, dai. Bisognerebbe mettere naturalmente degli agent provocateur sulle strade, naturalmente, no, dei provocatori. Naturalmente, questo vedo che entrate ormai nella logica del format dei alla Frecciera, molto bene. Allora, David, io direi di chiamare un signore, un consigliere comunale di Saronno. Io direi di chiudere, questa è importante, consigliere comunale di Saronno, molto tradizionalista, molto cattolico, anche un po' fascista, direi, anche perché lo ha detto lui tempo fa, che dopo le unioni gay, secondo lui, dopo le unioni gay, dopo forse la legge sull'omofobia, arriverà la legalizzazione della pedofilia. Non c'entra un cazzo? Chiamiamo. Let me hear you say, you should know me, you should know me. Sì. Il delicato? Sono io. Sì, buonasera, sono Cruciani. Ah. La radio, sì, buonasera. Come stai? Buonasera a lei, sto bene. Voi come state? Beh, ce la caviamo, siamo sempre al top. Ma è vero che tu hai detto che dopo la legge sulla che varrà, forse sì, forse no, contro l'omofobia, verrà la legge sulla che legalizzerà la pedofilia? Allora, io ho parlato di un crescendo, sì, che ci dovrebbe essere, ci potrebbe essere. Ho capito, ma che c'entra la pedofilia? Il riconoscimento della pedofilia? Nessuno mai riconoscerà la pedofilia, però. Io posso essere anche contrario alla legge sull'omofobia, e sono contrario, mentre Parenzo è d'accordo, però c'è contro l'omofobia, certo. Quella è un'altra discussione, ma che c'entra la pedofilia però? Effettivamente c'è, si parla addirittura di un disegno di legge sulla pedofilia. Sulla pedofilia, sì, aspetta un attimo. Non c'è nessun disegno, le posso assicurare, ti posso disegno. Assicurare, indelicato. Non c'è nessun disegno di legge che autorizza la pedofilia. Nessuno. Nessuno l'ha mai presentato in Italia, forse anche nel mondo, secondo me. Nessuno no, ha mai. No, non esiste. Ma non ti esiste. Posso dire. Sì, ma io. Ho capito, non, ma uno non può dire, non può dire che dopo la legge sulle unioni civili, dopo la legge che punisce chi è omofobo per le opinioni, diciamo così, verrà una legge che riconosce la pedofilia. Perché che legame c'è, secondo te, tra essere gay e la pedofilia? No, nessuno, nessuno, e io questo non l'ho mai detto. No, infatti, è una domanda. Infatti è una domanda. E quindi non c'è nessun legame diretto tra le due cose. Io però sono convinto, sì, e posso coltivare questa illusione di per carità, sei convinto, no? Di che cosa? Sì, certo. Ecco, sono convinto che c'è, come dire, una progressione in certi tipi di atteggiamenti, di comportamenti, di sdoganamenti. E aspetta, no, voglio capire, cioè c'è una progressione, cioè secondo te se uno ammette, diciamo, le unioni gay, dopo c'è anche, viene anche la legalizzazione, che ne so, la non so come dire, il riconoscimento della pedofilia, giusto? Sì, ma non dagli stessi soggetti, eh. Certe cose aprono la strada ad altre cose. Tu dici, arriva il momento giusto, cioè dire la cosa sull'omofobia, dopo una lunga serie di conquiste sedicenti, sì, in ambito, sì, eccetera. Sì. L'eutanasia si annuncia all'orizzonte, un riconoscimento della pedofilia, ma nessuno riconoscerà mai la pedofilia, è un crimine severamente punito. Tu veramente temi che qualcuno possa riconoscere la pedofilia in Italia? Sì, io lo temo. Perché lo temi? Non ho capito. Io lo temo perché è un delirio. Perché no, non è un delirio, è la finestra totale. Di Overton, cioè? È la finestra di Overton. È la finestra? Scusi, indelicato, la pedofilia, sì, non è all'orizzonte. Posso allora, darti una certezza, non è all'orizzonte. Posso spiegare la finestra di Overton? No. Qual è no, la finestra di Overton? Voglio sentire la finestra di Overton. Non può. Allora, prima, non me ne frega niente delle finestre a me. Però nulla. La premessa è questa, scusa, indelicato, la premessa è questa. Sì. È vero che tu sei un po' mussoliniano, diciamo la verità, sei mussoliniano un po'. Allora, sono uno che riconosce al fascismo dei meriti storici, ma non sono certamente uno che vuole ricostituire il partito fascista, fez sulla testa e fare le sfilate, cioè, in camicia ha fatto nera. Delle cose buonissime Mussolini, mi sembra di capire. Certo, che ha fatto delle cose buone, buonissime non lo so, buone certamente. Buone sì. Sicuramente. Dunque, diciamo, secondo ma cosa te c'entra questo con la pedofilia? Per rievocare una cosa, il tuo personaggio, per rievocare quello che sei, quello che hai detto, insomma. Cioè. Ma non ti preoccupare di quello che sono io, preoccupati semmai di quello che ho scritto. Vuoi che ti cioè, spieghi? Mussolini, sì, lo so, Mussolini è un grande statista, sì o no è stato, secondo te? È stato un uomo che ha fatto dei grandi errori e ha fatto anche delle cose buone. Vabbè, ma questo è... Mamma mia che, Parenzo, mamma mia che... La finestra di Overton la volete se sapere? No! Non voglio finestre! No. Di niente! No, aspetta, ma voglio è un sociologo, Overton, non è un fascista. Ma che ha detto? Ma che ha detto questo qua? Aspetta, fammi sentire. Allora, Overton, sociologo americano, ha detto e ha scritto che qualunque idea, anche la più socialmente ripugnante, nel momento in cui se ne fa oggetto di una discussione pubblica che dura nel tempo, che non c'è, e che viene fatta attraverso la stampa, attraverso la televisione, attraverso altri mezzi, diventa familiare. Ma dopo nessuno, che è diventata familiare, diventa accettabile. Ma nessuno pensa sia accettabile la pedofilia. Ma la pedofilia nessuno ne parla, ci sono solo i reati, nessuno pensa che sia accettabile. la pedofilia. Ma che dici? Negli anni 50. Ma che c'è? Ma infatti siamo si riteneva accettabile l'idea del matrimonio omosessuale. Lo vedi che fa il collegamento? Lo vedi che fa il collegamento? È del tutto accettabile e accettata da chi la condivide. No, comunque, guarda, perché non può essere anche per la pedofilia questo fatto? Ma tu pensi che i gay siano contro natura? Io penso, sì, certo, che la natura esiga che il rapporto sessuale fondamentale, principale, giusto, corretto, sia quello tra uomo e donna. Dunque, il rapporto è contro natura, è un rapporto contro natura. È un rapporto contro natura, cioè, certo. Essere gay è una, che cos'è? Non è una malattia, immagino, no? Cioè, non, è... non dico che sia una malattia. Però se tu, se tu avessi un figlio gay, che cosa faresti? Gli vorrei bene tanto quanto a un figlio eterosessuale, ma forse di più. Spiegami, perché contro natura questo rapporto? Che pazzesca questa cosa, contro natura. Perché gli uomini, scusa, gli uomini e le donne non fanno sesso anale. La fisiologia te lo dice, non te lo dico io. Cioè? È la fisiologia che dice che l'uomo è fatto per andare con la donna e la donna con l'uomo. Secondo te è un rapporto perverso? Sì, è un rapporto perverso, però, come dire, finché viene consumato così, con discrezione, con stile, con classe. Che vuol dire discrezione? Allora, non ho capito. Allora va bene, nel momento in cui, cioè, facciano quello che vogliono, per carità. Cioè, tu dici che se si in pubblico non si può... camera da letto delle persone. Però in pubblico non si devono baciare, per esempio. Beh, insomma, in pubblico effettivamente non mi piace che si bacino, ecco, dopodiché non... E poi dici che non fa un collegamento tra questa e la pedofilia, lo dici, non c'è un collegamento, vabbè. Tu no, dici... non c'è un collegamento, io non ho detto che la stessa persona... Però ti posso assicurare, l'ho capito questa cosa qua, ti posso assicurare che all'orizzonte non c'è nessuna preoccupazione da questo punto, nessuno vuole legalizzare la pedofilia. Cruciani e Parenzo, ne riparliamo tra un paio d'anni? Ma figuriamoci! No, non ne riparliamo mai più, ciao, spero. Ciao, buona serata. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Avevo 22 anni quando conobbi Sara, una californiana conosciuta qui a Firenze. Aveva i piedi sporchissimi, perché sai, ai turisti piace camminare con i sandaletti nelle città d'arte, da mattina a sera si fanno coi piedi belli neri. Ma ero così immaturo a 22 anni, non potevo apprezzare tale bellezza. Beh, adesso pagherei oro per rivedere, ma soprattutto leccare, quei bei piedini color carbone. Mannaggia, coronavirus purtroppo per noi retifisti ci ha tagliato ogni speranza. Ormai le turiste non ci sono più nelle città d'arte e qui a Firenze tocca vedere solo bei piedi puliti. I love my radio. Io, tra l'altro, i piedi più sporchi che abbia mai visto sono stati quelli delle americane, soprattutto nelle ore serali, quando si ubriacano, si tolgono le scarpine e camminano scalze nel centro di Firenze. Ossia, è come camminare in un porcile, praticamente. Quindi quei piedi si fanno neri. Beh, ragazzi, i piedi sporchini è tanta roba. I piedi sporchi è tanta roba, Parenzo. Tantissima roba. Tu non lo puoi capire, perché non puoi entrare in queste dinamiche. A te piace il tradizionale, a te piace il regolare, a te piace... Pulito. Si potrebbe dire il mainstream. Il mainstream, si potrebbe dire. Il mainstream, sì. Di quello che ti pare. Ma se un piede è sporco, mi fa schifo. Ma allora, hai la specialità in questa trasmissione di far passare me come un matto. Semplicemente perché dico che il piede è sporco e la persona sudata non mi piace. Se però tu ritieni che sia sexy e bello fare queste cose con una con i piedi sporchi che puzza come una capra, ma io non dico che sbagli, ma almeno non far passare, primo, uno, me come matto, due, non dire che non sei un porco perché sei un porco, tre, fa schifo se una non si lava, ecco tutto qua. E cosa vuoi che ti dica? Sì, però tu anche in queste cose qua ti dimostri come uno che appartiene al mondo dell'elite, no, all'elite no, perché l'elite è pieno di zozzoni, però in questo caso però al mainstream, al tradizionale, al classico, non so, non è che ti distingui per qualche cosa. Ma il cosa piede lo vuoi pulito, l'ascella non la vuoi sudata, il corpo di una donna lo vuoi senza un minimo di sudore, e che cazzo, ma ogni tanto lascia di andare. Un piede sporco è vita, il piede pulito, sì, va bene, d'accordo, non è che uno lo disdegna, però se si trova davanti un piede sporco lo accetti molto volentieri quando capita, molto molto volentieri, cazzo. Io impazzisco quando un piede sporco, che ti devo dire. E intanto collegamento dal Colorado, dove ritroviamo la nostra amica Michela Morellato. Eccoci qui, vai Michela, come stai? Ma quanta gioia, quanta passione. Michela, perché non sei tornata? Buonasera signora. Hai detto che tornavi a Vicenza. Buonasera Parenzo, ma Parenzo mi ricorda troppo mio marito comunque. Dopo attenzione. Dobbiamo parlare di questa attenzione. Cosa. Attenzione. Cambia tutto, amico Parenzo, mio, ti ricordo tutto. Il marito. Ma senti quello che dice, veramente sembra. C'è anche tuo marito, anche tuo marito Adam, che ricordiamo è un militare americano, eccetera, eccetera. Anche tuo marito non ama i piedi sporchi, non ama le cose irregolari, no. Quando sei sudata non ti vuole trombare, cioè ti vuole tutta perfetta, precisa, pulita. Cioè, io dormo con il naso sulla sua ascella, perché proprio mi fa proprio emozionare quell'odore della sua ascella. E lui invece no, io dico anche ad esempio la storia del sederino, no? Del sesso anale. Lei dice: ma no, ma il l'ano è fatto per uscire, cioè per solo per andare in bagno. Questo lo dice lui. Lui. E io dico: beh, allora, perché mi richiede sempre il sesso orale, che gli faccio delle grandi pompe. Delle grandi pompe, okay. Gli fai delle grandi pompe, esatto. Sì, diciamolo. Sempre, ok. Sempre. E allora lì però, allora anch'io potrei dirgli scusami, ma... beh no, la bocca però, devo dire la verità, da questo punto di vista, se uno va a ragionare proprio sulla... Ma che belle conversazioni che fate in famiglia, ma che no, belle però, ma le conversazioni che fanno tutti, amico mio, ma lei... Che belle conversazioni. Scusami, no, però la bocca in realtà serve anche per introdurre, cioè... Ma è diverso, non puoi fare questo esempio. Comunque abbiamo capito... Ma perché a Parenzo non piacciono i pompini, non ho capito. A Parenzo piacciono moltissimo... Adesso voglio dire uno. Ma scusi, suo marito conta o no? Fammi sentire Capezzone un attimo. Suo marito conta o no? Ad esempio, come no, che c'entra? Capezzone, ma siete Capezzone? Lei conosce? No, ma non lo sa, Capezzone? Non lo conosce, ma sta in Colorado. Sta in Ho capito, ma perché non conosce Capezzone? Perché non sei tornata? Lascia perché perdere Parenzo. Perché non sei tornata, Michela? Qual è il motivo? Dovevi tornare a Vicenza a farci godere. Perché esatto, ma mi hanno detto che se torno devo farmi 14 giorni con il papà, che saluto, però anche no, nel senso adesso vado in Messico, che qua stanno tutti andando in Messico. Sei tutti andando in Messico. A proposito, non ho finta di niente, cioè c'è il coronavirus ovunque e qui dicono dobbiamo infettarci tutti, quindi tutti avanti e indietro, andiamo in Messico, California, così le spiagge le chiudono, ma poi vedo che la gente ci va comunque. Ma sì, ma non ci sono vincoli lì, chi sono se ne frega, pazzi, ma sono non pazzi, sono pazzi, è la libertà, è l'America, è la mentalità. Ma che c'entra Trump? Non c'entra un cazzo. Donald Trump. Io sono confusa. Senti, a proposito di confusione, scusami un attimo. Allora, torniamo a parlare di cose serie. La questione dei rapporti sessuali con tuo marito Adam. Noi siamo sempre qui a fare il punto della tua vita secondo sessuale. Secondo me sarà felice il marito che lei parla di questo alla radio. Esatto, no, è contento, sì. No, ma non penso neanche che lo sappia, ma tanto è un problema suo perché doveva imparare meglio l'italiano, giusto? Giusto. Però posso ti chiedo subito una cosa: a che punto siete? Cioè, sei sempre un po' annoiata dal sesso con tuo marito? Il problema, Giuseppino mio, non è il sesso, perché essendo anche un uomo ben dotato, riesco a fare di tutto e di più. Però il punto è: no, di tutto e di più che significa? Voglio... Aspetta un attimo, cioè, per esempio, sesso anale con tuo marito lo fai? No, ok, quello non mi piace perché è troppo grande. Cioè è troppo grande il cazzo di tuo marito? Sì, secondo me sì, e non è piacevole. Cioè, soprattutto che misura è Adam, scusami, per curiosità? Non so i centimetri, però... Però penso per te è gigante. Ma no, sarà anche un 25-26. Sì, 26, ma è possibile. Ti giuro, guarda, dopo ti mando una foto, Ma come la foto? Signora, ma scusi, ma lei viaggia? Ma mandami una foto. Ma lei gira con la foto del coso di suo marito? Ma scusa, ma perché voi uomini potete mandare in giro foto? Io non mando in giro niente. Brava, hai ragione. Lui no, perché tu non sei normale. La gente normale manda in giro le foto. E giustamente lei dice, anche le donne lo possono fare. A chi l'hai mandata sta foto del cazzo di tuo marito? Alle tue amiche? Alle mie amiche, sì, infatti sono tutte, hanno fatto un gran bel applauso. Cioè sono impazzite tutto. Per cui tu, essendo grosso, il pisello di tuo marito non lo vuoi nel culo, diciamo, andiamo alla sostanza. No, sì, perché l'ho avuto in passato, esperienze così anche molto belle, però di sesso anale, era un modesto, bello, carino, pulito, dritto, molto... E invece tuo marito che cos'è? E tuo marito invece... è molto grande, è sempre bello pulito e dritto, però Monstrous Cock. Big cock. Com'è? Dillo, Adam, a very big dick. Parezza, ti piace big cock? Le lezioni di inglese della Zanzara. Per cui cos'è? Scusami, ecco Michela, adesso tuo marito è un bell'uomo, immagino, un bel ragazzo, quanti anni ha? 34. Dici che ha un cazzo pazzesco di 25-26 centimetri. Big dick, big cock. Ma cosa ci interessa? Capito? Ma che cos'è che non funziona in questo rapporto sessuale? Vuole scopare, mi sembra, no? Non è che... No, ma è quello che succede. Forse Parenzo qui mi potrebbe capire. Esatto. Noi donne cerchiamo l'intimità. In questo momento sono in posizione di meditazione chakra e facciamo un bel respiro. Io voglio fare meditazione chakra, con lui. Io Vuoi fare meditazione yoga? Che vuoi fare? Sesso tantrico? Sì, sesso tantrico, mi piacerebbe tanto, gliel'ho proposto, lui dice che sono cazzate. Ma ha ragione, però lasciami dire, però in questo caso do ragione ad Adam. Cioè tu, quello vuole scopare e tu gli proponi il sesso tantrico, e lo yoga, su. Perché voglio sentirlo dentro, faccio tutto l'universo dentro di me. Ma signora, ma non può parlare di questi problemi con suo marito anziché con 2 milioni di ascoltatori? Ha ragione, però posso dirti... Tu hai le tue pretese, però lui di fronte allo yoga, al sesso tantrico eccetera dice: amica mia, trombiamo senza troppe pippe mentali. Tu invece vuoi una cosa diversa dopo tanti anni, lo capisco, per carità, lo capisco. Lo capisco. Ma sai che bello anche farlo nudi nella spiaggia, cose così. Lui niente. Lui no, capito? Adesso per esempio, quando è stato 4 giorni fa ero in palestra e c'era questo ragazzino di 16 anni, bellissimo. Cavolo, a momenti, cioè, in America è considerata pedofilia. Io ne ho 34 pure, lui sono 16. Ma questo ha avuto il coraggio di venire e chiedere il numero di telefono. E vabbè, normale quello, però, scusami. Ho capito, però capisce. A 16 anni quello è lei, gliel'ha dato o no? E lei gliel'ha dato? Non gliel'ho dato. Ma scusa, ma tuo marito accetterebbe, per esempio, accetterebbe di guardarti mentre scopi con qualcun altro? No, non accetterebbe mai tuo marito. Hai capito. Io gli ho detto anche l'altra sera, gli ho detto: scusa, sai che carino, se prendiamo una ragazzina, l'avevo conosciuta una stripper qua tempo fa. Sì, e gli ho detto: ma la mettiamo dietro mentre tu stai facendo, magari lei non si annusa da dietro, non lo so, fa qualcosa. Vabbè, insomma, mamma mia. Ma e lui dice di no, ma poi dice adesso c'è il coronavirus, quindi è ancora più pazzo. Ma questo qua è pazzo. Io dico: Adam ha ragione quando rifiuta lo yoga e il sesso tantrico, ma qui sbagli, caro Adam. Cioè, come si dice? Dillo tu in inglese: stai sbagliando, accetta la ragazzina. Una amore. Donna. Dillo, my love. Esatto. Dillo. Amore, my love. You're really wrong. We need sometimes some extra fun. And we need sometimes some extra girls to come in our bed and make some. You know. some sex with us. Yes. Hai ragione, ma amico mio Adam, cerca di capire, una donna che ti propone una cosa del genere e tu dici no, è una follia. Parenzo, diciamo la verità, se tua moglie, la tua compagna adesso ti suggerisse una cosa di questo tipo, non lo farebbe mai alla radio. Ma io voglio siete degli esibizionisti, ma non suggerisce niente. La signora parla così del marito grosso, lungo, che non fa questo e non fa quello. Ma io voglio dire, ma se suo marito sapesse di queste sue è più famoso suo marito del capo della NATO, ma ci si rendiamo conto? Suo marito in Italia, per colpa di questa trasmissione, è più famoso di Steinberg. È una vergogna inaudita. Ciao, ti aspettiamo presto qui. Ciao amore. Saluti signora. Risentendo il podcast con la sfuriata di Susanna mi è tornato in mente qualche volta quando dopo 16-17 ore di lavoro continuo senza pausa, brevissima parentesi, sono cuoco, vedi tanti colleghi, chi comincia a pippare, chi si incazza, chi piange, chi si licenzia, è così, ogni lavoro ha la sua merda e ha la sua gioia, supera la merda e dopo ci sarà la gioia. Dai Susanna, forza! Ragazzi, a domani, italiani! Italiani!